prazer. La nostalgia è tuo prazer. Brasil sta lì, l'Italia qui. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Steiner, corto su Palacio, che è più fresco perché è entrato più tardi. Allora occhio alla palla per Messi, forse l'ultima chance per l'Argentina. Attenta ad questo campo, ma Messi passa. Messi passa e allarga per Di Maria. Il tuo uomo partita, anche il Di Maria, al 118esimo sull'assist di Messi. E la palla recuperata da Palacio, fa 1-0 e porta l'Argentina ai quarti di finale. Prova a sfondare Lukaku, se ne va di forza. Ha buttato giù Bessler. Lukaku ingresso nel rigore, Lukaku la mette in mezzo, palla per De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne in rete, De Bruyne, il Belgio in vantaggio, si ferma De Bruyne, poi dentro per Lukaku, Lukaku in rete, Lukaku, impatto tremendo sulla partita, Lukaku sta portando dei quarti di finale del Belgio, con il morbido di Bradley, Green, rete, è stato rete di aprire la partita, con il ragazzino del Bayern Monaco. Finisce, game over, all'Arena Fontenova, il Belgio dopo mille sofferenze batte gli Stati Uniti. Allora, vi siete divertiti ragazzi? Franco Pietrini, autore di questo programma? Sì, credo anche Roberto Scaltritti in redazione, Claudia Schiattone in regia, Claudia Schiattone in redazione, fanno tutti cercando di sì con la testa. Beh, io mi sono divertito, serve l'ultimo respiro, l'ultimo minuto, l'ultimo supplementare, quando non l'ultimo rigore, come nel caso di Brasile e Costa Rica, ma alla fine la notizia, perché è una notizia, che non ci sono sorprese, nonostante tutto questo passano tutte le pronosticabili. Poi chi tra Costa Rica e Grecia fosse quella più pronosticabile, fate voi, non è questo il punto. E intanto in Italia ci stiamo ovviamente rotolando nelle polemiche più politiche che calcistiche. Valgono anche oggi tutte le vostre considerazioni, 800240024, su presidenza federale, sul nuovo CT, su questo e su quello, e valgono anche tutte le lacrime sul nostro campionato che è depresso, sul nostro calcio che non ha più soldi, eccetera eccetera. Poi io do un'occhiata ai quarti di finale, tanto si apriranno venerdì, è il giorno, is the day, perché ci sono le due partite più belle, più eccitanti, alle 18 a Rio de Janeiro Germania-Francia, alle 22 ora italiana Fortaleza Brasile-Colombia, cioè due gare in qualche modo opposte, in qualche modo profondamente diverse, le due più diverse tra di loro, insomma. Mentre sabato avremo Belgio-Argentina alle 18 a Brasilia, due squadre che ieri non mi hanno impressionato neanche un po'. L'Argentina continua a non giocare bene e a sfruttare il talento dei suoi fuoriclasse. Sai che novità, siamo ai mondiali. E sempre sabato Olanda-Costa Rica, che invece è la sfida che meno mette brividi. Ore 22 di sabato sera, magari qualcuno farà dell'altro. Intanto prendiamo un paio di giorni di respiro, e servivano. No, però dicevo, questo è un tema che mi interessa. Do un'occhiata alle ultime 8 di questo mondiale e mi rendo conto che, tolta la Germania, non ci sono tra queste nazioni campionati di alto livello, non ci sono campionati particolarmente ricchi, non ci sono campionati particolarmente all'avanguardia, se vogliamo, anche dal punto di vista politico o strutturale, ma soprattutto abbiamo i quarti di finale dei paesi dell'esportazione. Cioè, noi siamo qui a dire: ma i nostri giocatori giovani devono giocare, il nostro campionato fa schifo, non abbiamo più squadre forti, eccetera. Allora, questa Francia è stata fondata su un gruppo di giocatori che sono andati tutti a giocare all'estero in campionati più competitivi. Brasile e Argentina sono storicamente paesi da esportazione, la Colombia lo sta diventando, questo Belgio non è certo composto da giocatori che giocano nel campionato belga, Olanda fate voi, Costa Rica non saprei. Che dite di questo? 800240024, numero verde, vi aspetto dopo il traffico, e Pardo arriva come al solito alle 15. convocati. Ragazzacci, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci passa l'Uruguay, veniamo eliminati. Terzissimo finale di questo mondiale, perdiamo 1-0, gol di Godin. Filippo Maria Ricci, dai, facciamoci una bella frignata insieme. Ciao. Lacrime. Lacrime, sei a Madrid, sei tornato. Sì, ho finito. Ti hanno rimpatriato, hai finito, hai preso una bella schienata, come canta questa canzone insieme a noi. Sì. Quindi sì, dai, siamo tutti fuori fazzoletti, piangiamo un po' insieme. Allora, qui da noi succede che, lo sai, ma riepilogo per dovere di cronaca, ci stiamo rotolando nelle polemiche. Cioè l'elezione di un presidente federale, si discute sull'età del presidente federale, discuterei anche sull'estrazione, sul pregresso, poi non abbiamo il becco di un quattrino per prendere un commissario tecnico, ovviamente girano un sacco di nomi e poi ci sarà qualche sorpresa, tutto è sotto accusa, siamo da buttare. Tutto bene. Tutto a posto. Lì? Sì. No, qui invece non ci sono polemiche, qui è tutto tranquillo, Del Bosque dovrebbe rimanere, il presidente è qui dal 1965, quindi perché se ne deve andare, il presidente federale è lo stesso dagli anni 80, e quindi non se ne andrà mai, un po' come Blatter, infatti amico suo, qua hanno messo la testa sotto la sabbia, mettiamola così. Sì. E hanno buttato la spazzatura sotto il tappeto. Sì. Insomma, i problemi ci sono, cioè la Spagna, la crisi è stata un cambio di attitudine importante. Qua io direi simbolizzata dalla presenza di Shakira nell'albergo di Washington del ritiro. Vabbè. Questa perché è così, è un'iperbole che però serve bene per descrivere, diciamo, quello che era la nuova Spagna, dopo che sono stati molto tranquilli e buoni, e veramente devo dire ragazzi d'oro, io l'ho sempre detto anche su queste frequenze, che insomma mi ha sempre colpito molto la bontà di quelli che erano comunque già dei super campioni, devo dire, molto umili e coi piedi per terra, adesso sono un po' imbizzarriti, e adesso vediamo cosa succederà, però non si sono forse resi del tutto conto che questo cambio di attitudine alla fine, che poi forse, attenzione, è anche giustificabile, perché se tu vinci mondiale europeo ma magari hai ancora tanto credito da spendere, magari voglio fare le interviste, ti stanchi tra i giornalisti così, e quindi così in parte comprensibile, c'hai meno, è quello che diceva un po' Xabi Alonso. Ascolta, ma toglimi una curiosità, perché non lo so, quanto guadagna Del Bosque? Sai che non so una cifra precisa, mi sembra 5 o 6 milioni, mi sembra. Però mica sì, poco, guadagna bene, però perché ovviamente è al contratto in scadenza tra 2 anni, quello lo sono sicuro, sulla cifra non sono sicurissimo, però però non è stato convocato in Parlamento, non è stato convocato al Parlamento spagnolo, cosa che invece è accaduta, non vorrei essere lui almeno per 10 minuti, a Fabio Capello. Capello convocato domani al Parlamento russo insieme ai dirigenti del ministero. Io c'ero quella sera. C'eri quella sera? Cioè io ero lì a Curitiba. Perfetta lezione di italiano. Sì, va, esatto, ma dico, ma di che cosa, cioè, di che cosa si è lamentato? L'unico rigore che forse c'era era per l'Algeria, cioè, quello che chiedeva lui non, cioè, era fuori area, non era neanche fallo, no, meraviglioso. E poi meraviglioso. Dopo il laser, mitico, poi il laser. Il laser, cioè, non il portiere, che non il portiere scarso da morire, no, no, perché cioè, già gli era costato. Poi tra l'altro attenzione, perché cioè, lì c'è la maledizione, perché già con Robert Green gli era successo lo stesso 4 anni prima, il portiere che gli fa la papera. E niente, poi lui pensava che fosse di nuovo successo come con la Germania e con l'Inghilterra, che era colpa dell'arbitro che non gli aveva dato il gol, effettivamente il gol dentro di un metro, e ha di nuovo attaccato gli arbitri. Però, ma sai, c'è una congiura di massimi sistemi politici ordita dall'Occidente, dall'Ucraina, non so da chi, contro la Russia, evidente, no? Lui dirà questo domani al Parlamento russo insieme al Ministero dello Sport e dell'Unione Calcistica, Ministero dello Sport e dell'Unione Calcistica. Deve andare lì a spiegare il flop della nazionale russa ai mondiali e il suo progetto per il futuro. Don Fabio, adesso dico solo una cosa: ai mondiali 7 partite ne ha vinta una con la Slovenia, 1-0. Forse un po' di autocritica è necessario farla. Aveva in mano 2 squadre con l'Inghilterra e la Russia, che non sono il massimo, però insomma, neanche il minimo. Non è che è andato lì con la Bosnia, e per cui non lo so. Un po' un minimo di autocritica è sempre, no, sempre poi, sana. Poi lì, allora, tutti i russi che giocano al campionato russo. Io facevo, Filippo, te la voglio girare questa considerazione così, che mi è venuta così. Allora, Spagna a casa, Italia a casa, e va bene. Leggo i nomi delle ultime 8 rimaste. C'è la Germania che ha un campionato, vabbè, che si chiude a marzo, però vai, lascia stare che si chiude a marzo. Però un buon campionato. Un buon campionato. La Francia ha un paio di squadre di ricchi, basta. Campionato brasiliano esiste, sì. Botafogo, Flamengo, Vasco da Gama, esatto. eccetera. Sì, c'è Zico, Romario. dimmi 3 squadre colombiane se te le ricordi. No, assolutamente niente da fare. No. Argentina, io faccio il tifo per il Boca, poi c'è il River Plate. Campionato ridicolo, campionato distrutto dalle vendite, perché tutti i giovani vanno via. Quindi insomma, esatto. Nel campionato argentino l'idolo è ancora Riquelme. hanno chiesto a Verón di tornare. Insomma, attenzione. E il campionato belgio è del Belgio è tra i più gettonati dal punto di vista dei diritti televisivi, certo. Così come quello olandese, e del campionato di Costa Rica, ragazzi, non ci perdiamo manco una partita. No. Esatto. Quindi abbiamo una fila di campionatoni. Quindi, espressione di una fila di campionati meravigliosi. E poi soprattutto io noto, parlando seriamente, che tolta la solita Germania sono tutti paesi di esportazione. Questa Francia è stata costruita all'estero praticamente, tutti giocatori molto giovani, ma che per la maggior parte sono andati a giocare via. Certo. Brasile, Argentina, Colombia, manco a parlarne, Belgio, Olanda pure, Costa Rica fai tu. Sì, no, infatti è così. Però ecco, a me una delle cose che diceva Capello, diceva, si lamentava che i suoi giocatori giocassero tutti in Russia. E dico, vabbè, però cioè, mentre prima, no, quando era in Inghilterra si lamentava perché aveva pochi giocatori inglesi. Allora, c'è sempre da lamentarsi, questo sicuramente. Però non prova nulla, secondo me, invece, l'argomento. Non so come dire, è un campionato decente, e se poi non li compra nessuno. Ma anche perché anche qui in Italia, no, abbiamo la pretesa che vengano fatti giocare i giovani italiani, ed è una cosa che mi fa impazzire. I giovani italiani devono giocare, se sono bravi, al massimo livello professionistico possibile, se no giocherà qualcun altro che magari non è italiano, perché al massimo livello professionistico possibile devono giocare i migliori, altrimenti se non possono giocare qui, che prendano e vadano a giocare in Belgio, o vadano a giocare in Colombia, esatto, o vadano a giocare in Costa Rica, spagnoli, o in Olanda. Certo. Attenzione, perché questa è una cosa interessante, perché per esempio gli spagnoli negli ultimi 2 anni c'è stato un esodo clamoroso. Allora, tutti guardano, solo l'anno scorso in 30 sono andati in Premier League, solo in un'estate 30-32, sì. Però lo spagnolo va ovunque, lo spagnolo ha vinto, cioè ci sono spagnoli, perché qua poi ne pubblicano, è divertente, i giornali li seguono un po', perché poi sono storie ovviamente curiosissime, però poi sono spagnoli che vincono il campionato in Nuova Zelanda piuttosto che in Vietnam, che quello che dici tu, cioè vuol dire, uno va dove può andare, dove trova, cioè come i nigeriani sono dappertutto, se sono forti vanno al Chelsea, se no vanno a giocare alle Vanuatu, va bene. Sì. E da noi invece però no, questa cosa no non va bene, non va bene, se vanno via, no, ma ce l'hanno rubato, mamma mia, adesso sì, come facciamo? Oppure non lo guardiamo più, perché l'altro giorno pensavo a Bocchetti, ma così, e non so perché mi è venuto in mente Bocchetti. Vabbè, ma no, gioca ancora, noi mettiamo in discussione Verratti. Cricito e Diamanti, Franco Piantrina mi dice, ma lo sto dicendo anch'io, è andato a giocare in Cina, no, beh, nel momento in cui hai preso l'aereo per la Cina, fuori dalla nazionale, magari chiede Giuseppe Rossi quanto ha sofferto, per andare indietro chiede a Zola quanto hanno sofferto, o Di Matteo quando sono andati all'estero, e più o meno la carriera internazionale è finita, perché poi hai capito, c'è anche questo discorso qua, insomma, siccome si può mettere in discussione uno come Verratti, che è uno dei pochi dei nostri che fa la Champions in un certo modo, certo. E in una squadra importante, così però viene da noi, insomma, abbiamo avuto parecchi segnali di, insomma, che non veniva apprezzato. E allora va bene così, tutto a posto. Filippo, io sai che adesso ti devo dare una coltellata, ho aspettato la fine, cioè gli ultimi due minuti del nostro collegamento. Calcio africano. Però attenzione, disastro. Ho fatto il record, due squadre agli ottavi la prima volta. Sì, ma smettila. Allora, Ghana e Camerun abbiamo deciso ieri, io e Pardo, tra l'altro medaglia rispettivamente d'oro ed argento per l'ineleganza nel modo in cui si sono comportati e sono usciti. Medaglia di bronzo l'Italia, però oro e argento a Ghana e Camerun. Sì, allora, il Camerun però io ho ampiamente previsto, cioè veramente ti do atto. Se vado a riprendere il pezzo che ho scritto per il sito della Gazzetta, lì più o meno c'era già quasi, l'ho azzeccato veramente quasi alla virgola. Il Camerun, sì. Cioè era chiaro, una bomba orologeria, e così è stata. Adesso poi vediamo, perché a me questa storia poi che ci sono venuti la partita, attenzione, cioè, ovviamente io non ho le prove, però insomma, è interessante. Diciamo che è un caso da seguire, mettiamola così, perché ci sta, perché quell'espulsione miracolosa di Song è stupenda, ti dà un cazzotto, tu puoi fare tante cose, però dare un cazzotto a uno per può darsi che avessi degli interessi a farsi vedere. Comunque il Ghana è stupendo, io il Ghana, cioè quello che mi sta qui, cioè io voglio dire, ma il fisco brasiliano, ma dico dov'è? Che questi sono arrivati con la valigia, con dentro il grano, hai capito? Certo, se i nostri genitori o i nostri amici un benefattore, noi siamo in Brasile e ci manda, ma non tanto, anche 50.000 euro, mica tanto. Quando li portiamo fuori, se non li denunciamo, abbiamo dei problemi se ce li beccano. Sì. E se li denunciamo, li lasciamo lì il 50%. Beh, chiaro, come dovrebbe essere. Quello c'era il terzino che baciava il centone, $100.000. Dico, ma io se sono della dogana, appena vedo la tuta rossa della GFA, della Ghana Football, scusi, lei, i soldi dove ce li ha? Li in borsa, perché ce li ha in borsa. Ma me l'hai raccontato tu, no? Che loro hanno bisogno della fresca, del contante, perché se li spendono immediatamente per le loro cose. No, a parte quello, poi in generale perché non si fidano, perché avete ben venuto anche fuori la cosa, dicendo non c'hanno il conto in banca. No, il conto in banca ce l'hanno, ovviamente. Però Boateng non ha il conto in banca, esatto. Però se non si fidano, cioè il problema è che non si fidano, perché io lì poi ci sono stato, di queste federazioni le ho conosciute abbastanza. Sono grandi promesse. Infatti, i nigeriani, qual era il problema dei nigeriani? Che l'anno scorso il premio della Confederation non gli è mai arrivato. Allora dice, stavolta dice, lo sai che c'è, o arriva. Però sono intervenuti per Ghana e Nigeria due presidenti, ma non il presidente della federazione, proprio il presidente del paese, a dare la gara, ci ha messo la pace, dice no, i soldi vi arrivano. Capito come siamo messi? Povero, il calcio africano me lo massacrano. Comunque torniamo a parlarne, non te la cavi così, caro Filippo. Gli è andata un po' male sull'inglese. E poi quel Francia-Nigeria, permettimi di dire che arbitrata diversamente, potevamo fare qualcosa di più. Sembri capello. Sembri capello. Hai preso questa palla e l'hai schiacciata giustamente. Va bene. Ciao Phil, grazie. Ciao. Ti abbraccio. 800-24-0024, vi aspetto dopo la borsa. Kinfayev alla fine ce la fa a segnarsi da solo, 1-0 per la Corea. Dentro Kinfayev, vuoto. Slimani. Ancora Kinfayev per la Russia. Tutti convocati. Sarebbe bello fare cinquina, ma non è semplice, forse impossibile. Penso al 2006, chi chissà cosa darei, ma per rivincere io penso che serve un culo così grande. Pallone per Sanchez, palla dentro, attenzione, Pirillo ha spaccato la traversa, clamoroso all'ultimo minuto. Sia ben chiaro che col cuore tiferò, se segniamo esulterò. Rodriguez verso Benaglio, la girata arriva da Shaqiri, si gioca ancora, 3 minuti di recupero ha concesso l'arbitro, ancora Shaqiri, la rimette in mezzo, non è entrata, non è entrata, non so come, ma non è entrata. La tattica anche, ci vuole passione e tanto sudore, però tutto questo non conta più nulla, se arriva la sfiga e poi ci castiga. Per questo motivo io sono ragazzi, ma questo è normale, questo è ovvio che serve un culo così grande, soprattutto per vincere un mondiale. È la manifestazione più aleatoria dello sport più aleatorio del mondo. E dunque questo è del tutto normale, no Mauro da Venezia? 800240024, fatemi sentire la vostra voce e ditemi la vostra anche su Mazzarri, che ha prolungato il contratto ufficiale fino al 2016, sarà allenatore dell'Inter, forse. Mauro. Ciao direttore. Ciao, no, direttore. Volevo tornare a un discorso un po' particolare su Balotelli. Sì. Tutti ricordiamo Balotelli per quello che è, ma se prendiamo Balotelli, visto che la sua sfortuna, come dice lui, di essere nero. Ancora? Un'altra volta? Ma no, lo mettiamo dentro sulla candeggina, lo tiriamo fuori. Sì. Gli cancelliamo tutte le cappelle che ha fatto all'Inter gettando la maglia sulla semifinale del Barcellona, tutto quello che ha fatto a Manchester a pugni con Mancini, ha tirato le freccette ai ragazzi del vivaio, ha incendiato un appartamento, bravo, e si è fatto distruggere la macchina 2 o 3 volte, sì. O l'ha distrutta lui, è arrivato al Milan, ha litigato con chi non so, con Allegri e con Galliani, dappertutto è sempre stato difeso. Vediamo un Balotelli in bianco e non più nero. E cosa ci ricordiamo del suo calcio, dei suoi gol? Leviamo i 2 gol della Germania, qualche gol al Milan, qualche gol all'Inter. A Manchester cosa ha fatto? Non so, la sua fortuna è essere nero in Italia. No, non sono d'accordo, non sono d'accordo Mauro. Questi, secondo me questo è un discorso un po' forzato. Io ricevo, ma glielo assicuro, un sacco di messaggi che non leggerò mai a sfondo razziale e quant'altro. Il problema vero è che qui ci poniamo questo tipo di problemi, ma secondo lei in Francia c'è qualcuno a cui importa qualcosa del colore o delle origini di Pogba? C'è qualcuno cui importa qualche cosa del colore di chi indossa la maglia dei Bleu? Ma c'è stato qualcuno in passato cui questi argomenti sono importati? Secondo me tutta questa storia non vale su Balotelli. È un giocatore di calcio italiano, resta secondo me un grande talento, per la maggior parte inespresso. Non è vero che non ha fatto proprio niente, perché secondo me paradossalmente l'ultima stagione in un pessimo Milan è stata la migliore della sua carriera nel rapporto presenze-gol. Il problema vero è che questo rapporto piange dal punto di vista delle presenze, cioè ha un grosso limite, che è quello dei comportamenti, del fatto che si chiama fuori in maniera stupida in molte situazioni, ma questo è quanto. Cioè non i discorsi di altro tipo, secondo me, sono o delle scuse o delle forzature, niente altro. Antonio da Napoli, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Ha tifato Argentina ieri? No. Come no? No, no. Che tifa per Higuain, per il Pocio Lavezzi? No. Sì, io sono un po', volevo fare un discorso, più o meno non condivido quello che ha detto l'ascoltatore di prima, però soffermarmi molto velocemente su 2 punti. Il fatto che non vedo più un attaccamento da parte di alcuni giocatori della maglia, cioè troppo pagati, troppo poco attaccamento alla maglia, e poi non vedo più in Italia la coltivazione proprio di giocatori italiani, dalla Beretta, dalla Primavera, cioè il vivaio italiano proprio, a fronte di giocatori giocatori proprio stranieri, strapagati, non lo vedo più coltivato come in passato. Infatti, se vediamo le nazionali passate italiane, c'erano tanti giocatori veramente che rimanevano in Italia, perché poi in Italia comunque c'è un modello e un modulo di gioco che è molto importante rispetto ad altre poi nazioni straniere. Sì, ho capito, Antonio, però vale il discorso che queste storie le abbiamo sentite già molte volte, però secondo me vale, non so se lo condividi, il discorso che ho fatto prima, cioè non devono i ragazzi italiani non devono giocare per diritto divino, questo in nessuno sport, non devono giocare per diritto divino in Serie A solo perché sono italiani. Al massimo livello ci vanno quelli bravi, e ripeto, tutte queste nazionali che vedremo giocarsi venerdì e sabato l'ingresso alle semifinali mondiali, tolta probabilmente la Germania, sono paesi che esportano giocatori. Quindi qual è il sistema del calcio giovanile brasiliano? Qual è il sistema del sistema calcio giovanile argentino o della Costa Rica? Qual è? Semplicemente hanno giocano a pallone e poi cercano di andare dove possono crescere. Da noi invece devono stare accanto a mamma e papà, perché sennò così non va bene. Ed è questo che mi porta a riflettere. Perché crescono tutti questi giocatori, sono diventati grandi all'estero. Tutti i giocatori argentini, partiamo da Messi e poi andiamo in giù, in sud, andiamo dove volete. In Olanda, in Costa Rica, in Brasile, in Colombia. Sono tutti giocatori che hanno vissuto e fatto la loro carriera lontani da mamma e papà. E magari questo qualcosa vuol dire. Quanto all'attaccamento alla maglia, insomma, il discorso che facevamo ieri e che in parte condivido, in questo mondiale ho visto tante facce convinte, ho visto tante facce con dipinto sopra qualcosa di diverso rispetto a quello che vedevo sulla faccia dei giocatori italiani, ma anche sulla faccia dei giocatori africani o di quelli spagnoli. E credo che non sia un caso, l'ho detto ieri. Forse Prandelli ci ha visto giusto tra gli sberleffi generali quando ha parlato di spirito patriottico, sì, ma di spirito. Gianmarco, North Carolina. Buongiorno a tutti. Da dove mi sta chiamando? Innanzitutto chiamo dalle North Carolina. Sono USA? Sono un insegnante di scuola media in North Carolina, un immigrato italiano. Ma davvero? Io la ringrazio, la ringrazio molto. Seguo il programma tutti i giorni quando posso, perché è uno dei migliori programmi di calcio che abbia mai sentito, quindi complimenti per la trasmissione. E una considerazione sul calcio americano, in particolare sulla partita di ieri, perché è veramente divertente guardare una partita di calcio con gli americani quando c'è di mezzo la nazionale americana. Perché secondo me gli americani hanno una passione per il tifo, per il calcio, che noi abbiamo perso tempo fa, perché quando noi ci preoccupiamo delle squadre di club, ci preoccupiamo delle polemiche, Balotelli, non Balotelli, Prandelli, loro semplicemente fanno il tifo per la propria squadra, cantano, si divertono, e c'è un'atmosfera completamente diversa, molto anche, se vogliamo, più godibile. Una considerazione veloce anche sulla crescita del movimento calcistico negli Stati Uniti. Gianmarco, senta, su questo argomento sentiamo anche che cosa ha detto Klinsmann e poi lo commentiamo insieme. Il calcio è arrivato negli Stati Uniti perché ci sono milioni di bambini che giocano il pallone, e poi anche abbiamo una lega adesso, la MLS, che sta crescendo, ogni anno diventa un po' più meglio, e per queste cose io con la nazionale faccio il mio lavoro e sono molto molto fiero di fare questo lavoro, perché abbiamo dei ragazzi giovani che possono soltanto migliorare, e speriamo di sorprendere ancora più squadre nel futuro. Difficile che Gianmarco dalle nostre parti ci possa essere il presidente I believe and we can win, difficile. Anche perché provocherebbe divisioni politiche come all'istante, un casino. Se farebbero polemiche all'istante. Ripeto, siccome hanno un modo di di vivere il calcio che noi non ci possiamo più permettere per ovvie ragioni socioculturali, purtroppo. E questo è veramente gusto, perché è un viaggio indietro nel tempo in qualche modo. Però Klinsmann, secondo me, ha ragione, perché il calcio è in forte crescita. Io alleno calcio negli Stati Uniti, anche alleno football americano e calcio nella primavera, e c'è una grandissima crescita del movimento, anche perché c'è una grande preoccupazione per gli infortuni che sport tipo il football americano, il basket, anche il baseball comportano. Convocati. Sei sempre un po' triste, no? Quando non vinci la partita, però credo che abbiamo fatto un torneo meraviglioso, un torneo in cui abbiamo dimostrato che possiamo sorprendere anche grandi squadre, perché con il nostro gruppo, un po' il gruppo della morte, abbiamo già sorpreso qualche persona, ma anche oggi, andando fino alla fine, 120 minuti, e ancora la possibilità di segnare proprio alla fine della partita, è stato un dramma. Però credo che la gente negli Stati Uniti, anche tutti i tifosi qui, e soprattutto la squadra, può essere molto orgogliosa. Oggi ha fatto 27 tiri al gol, questo oggi ha giocato meglio, ma il di tre partite prima non è grande gioco, ma ha vinto, e questo è la più importante. Dunque, abbiamo sentito di nuovo Klinsmann, abbiamo sentito Mertens. Mi spiace da morire che sia caduta il collegamento con il North Carolina, perché stavamo facendo un discorso con un nostro ascoltatore da là, molto molto interessante, e a conferma di un movimento che cresce, di un movimento che ha ovviamente grandi numeri. E poi ne parlavamo anche ieri con Pierluigi Pardo, altro discorso che può essere un ulteriore spunto di approfondimento. Allora, nel basket, football, baseball, hockey, nei quattro sport nazionali, gli americani nemmeno si mettono a giocare con gli altri, perché sono i più bravi, sono i più forti, sono quelli che detengono il sacro graal in quegli sport. Nel calcio invece devono confrontarsi con il mondo, lì non sono i più bravi, però conoscendo la loro mentalità e conoscendo i numeri e la cultura sportiva che hanno, non è escluso che, non so se dal prossimo giro, ma ancora un paio di giri di mondiale, e li troveremo ancora più in alto di dove li abbiamo ora, ieri sera, lasciati. Passiamo all'altro ascoltatore, 800 24 00 24, numero verde. Francesco da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Francesco da Roma. Cosa fa nella vita? E sono immigrato argentino e lavoro nel campo religioso. La sua voce mi è nota comunque, non è una voce nuova questa. Noi argentini siamo un popolo che ci assomigliamo molto, non è difficile. È contento quindi della vittoria sulla Svizzera? Pensi che oggi sono passato di fronte alle guardie svizzere del Vaticano. E che cosa ha fatto? Gli ha consolati? Cosa gli ha detto? Mi sono messo a ballare il tip tap sulle loro scarpe, tanto so che non si devono muovere quando sono di guardia. Eppure c'è qualcosa che non mi convince, eh? Continuo a pensare che la sua voce mi ricorda qualcosa. E dopo aver ballato il tip tap, ho dedicato alle guardie svizzere anche un canto. Gregoriano? No, un canto di Maria. Ma dopo non ho resistito e ho intonato anche un ritornello. Si può dire qual è il ritornello? E la coppa non c'è più, non c'è più, non c'è più. Forse conosce anche lei questa canzoncina, è molto simpatica. Sì, bella. Però la sua voce mi ricorda terribilmente quello del Papa argentino, tifoso. No, lei gente si sbaglia. Il Papa non può tifare per nessuno, perché il calcio è veicolo di pace e di dialogo. Sì, però alla fine sembrava proprio si fosse un santo a proteggere l'Argentina, con quel palo di Inler all'ultimo istante. Ho solo preso un po' di misericordina e ho pregato che il Signore benedica l'Argentina e la Madonna la custodisca. Allora, lei è davvero... Gana Rodrigo, va Palacio, no termina todavía, va Messi, va Messi, va Leo, va Leo, va Leo, Di María solo, Messi, pero Di María está... Podía imaginar un gol así, menos en octavos, en el tiempo extra. La verdad que no tengo palabras de agradecimiento a todos por el apoyo de siempre, y principalmente a Fer, que antes de que arranque el segundo tiempo extra me dijo, este partido lo gana vos, y la verdad que muy contento. ¿Qué le dijiste a Messi? ¿Le gritaste en la jugada? No, yo corro para adelante nomás y él decide a quién se la da. La verdad que me la dio justo cuando tenía que dármela. La verdad que contento porque, bueno, como siempre digo, nos entendemos muy bien. Che giocatore pazzesco che è Di María. E anche ieri Messi, ripeto, in un'Argentina che continua a non convincermi come squadra, come impostazione, come linea difensiva, perché quella linea difensiva è da brividi, cioè giocatori che nel tanto bistrattato e depresso campionato italiano sarebbero in panchina o sono in panchina, come nel caso di Fernandez del Napoli, certamente pochissima qualità dietro, ma davanti si fanno paura. E anche ieri che Messi è stato... gli hanno messo i secondini intorno, hanno provato a metterlo in prigione. Anche ieri Messi ha fatto, non solo quell'azione, ma ha avuto dei lampi, finalmente da numero uno assoluto ad un mondiale. Maradona ha detto qualcosa? Sentiamo. Hay que meterse en la cabeza que no podemos ser Deportivo Messi. Hoy vemos una Argentina que no da un paso adelante, o sea, que no tiene cambio de ritmo, que el cambio de ritmo lo provoca Messi en el gol porque Lichtsteiner pierde una pelota. Sì, caro Diego, però era il Deportivo Maradona, quello dell'86. Diciamo che nell'86 c'era cambio di ritmo, c'erano grandi idee e c'era un grande gioco. Quella Argentina era esattamente il Deportivo Maradona, come è normale, quasi giusto che questo debba essere il Deportivo Messi, perché questi possono, devono, io spero, diventeranno i mondiali della definitiva consacrazione di Lionel Messi, anni 27, è ora. Nico Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Dico. Complimenti per la transizione, lei a farlo. Grazie. Di solito segue anche lui quando posso, con tiki-taka. Sì. Volevo fare una considerazione sul calcio americano. Ho visto ieri sera la partita del gioco Stati Uniti. E mi ha impressionato tantissimo, perché c'erano dei calciatori che alla fine quasi non li conosce nessuno. Ce ne sono pochi in giro per l'Europa, adesso sono tutti semi sconosciuti, perché poi tra Vrelli, che ha giocato a Roma, tra un paio che giocano in Inghilterra, quasi non li conosce nessuno. Sì. E hanno fatto una bella figura. E riferito a quello che diceva Klinsmann, il suo ascoltatore che l'ha chiamato dall'America, non è che noi, diciamo, in Europa pensiamo più all'interesse che proprio allo sport, al gioco di calcio. Ma pensiamo ad un sacco di cose, interesse compreso, ma non è che gli americani giochino gratis, adesso non facciamone un popolo di santi, perché sappiamo bene come lì ci sia il massimo del sentimento professionale esistente al mondo, cioè iper professionali sono gli americani, certamente non giocano gratis, non giocano per divertirsi, giocano per, appunto, per professione. La verità è che stanno crescendo enormemente, ma dal punto di vista dei numeri, dei tesserati, e sotto questi numeri, sotto questi tesserati e sotto i quattrini che squadre come Orlando che ha preso Kakà o il nuovo soccer americano, ci sono lì dei quattrini, ma sotto c'è soprattutto, ed è questa la cosa più interessante, grande passione, questo sì. Bet Corner. Tutti convocati. Messi, si inciuffa Messi, va Messi di gol! Di Maria! Gol! Gol! Gol! Questa da un altro pulpito, questa predica da un altro pulpito dopo il gol di Lionel Messi, di Maria ieri su quella meravigliosa giocata di Messi. È quasi ora di fare i pronostici, tra un po' convoco Pardo, anche perché sono curioso di sapere come sta andando Twittao. Quasi ora di fare i pronostici per i quarti di finale, abbiamo un paio di giorni di tempo. Io un'idea grosso modo ce l'ho già, non è granché originale. La mia è questa: Germania e Brasile da una parte, Argentina e Olanda dall'altra. Sei banale, mi direte voi, avete ragione, però la vedo così. Sfida più combattuta, secondo me, quella da Francia e Germania. Anche qui non sono particolarmente originale. Credo che per il Brasile, che pure mi convince zero, mi ha convinto zero fin qui, o comunque pochissimo, credo che l'incrocio con la Colombia sarà meno complicato rispetto alla partita con il Cile. Belgio-Argentina, partita tosta per Messi e per i suoi, però anche il Belgio, se vi devo dire la verità, non è che mi abbia fatto fin qui tutta questa impressione. È arrivato in alto, e questo era Colombia e Belgio. Anche qui mi sembra un po' un mondiale dei pronostici rispettati, in qualche maniera, con grande sofferenza, eccetera, eccetera, però mi sembra un po' il mondiale dei pronostici rispettati. Quasi tutti avevamo detto Colombia e Belgio, squadre emergenti e squadre in crescita, si sono rivelate tali, però mentre la Colombia ha fatto vedere diverse cose interessanti, il Belgio meno, anche ieri con gli Stati Uniti, e non vi nascondo il mio tifo a stelle e strisce. Eccoci, grande puntata di Tiki Taka, chi ti caga? Io ti cago. Un saluto da Pierluigi Pardo, Pardo il Ghepardo. Speciale mondiali, ma il mondiale per noi è già finito. È troppo, sì. E abbiamo fatto una gran bella figura di merda. Via, guida. Ma per consolarci stasera un sacco di sotto, un sacco di fregna. E dato che io sarò la voce di FIFA 15, stasera abbiamo Figa 15 figli, qui in studio, a Tiki Taka, Melissa Satta, Belen Rodriguez, bene, okay. Elisabetta Canaro, sì, Federica Narci, Melita Toniolo, e infine la bella Fanny. Sì. A Fanny, ascolta qui, il tuo bello Mario ha fatto proprio cagare, eh? Non l'avrai mica spompato troppo nel ritiro azzurro. Che domanda è? Quella! Ma che dici, Pardo? Sì, buongiorno. Ho già dato mandato ai miei legali. Ai tuoi legali, of course. No, sono mitici gli autogol, anche se sono stati, diciamo, sull'aspetto più boccaccino della trasmissione, che in realtà, a parte tutto, sono portato anche delle inchieste di un certo tipo, siamo stati a Scampia a raccontare calcio e camorra, sì. Siamo stati in Ucraina per la rivoluzione attraverso, sì, siamo stati in Sardegna per l'alluvione, Poi alla fine invece Melissa Satta, ma parliamoci chiaro, ma tira di più l'alluvione o lascia stare, va, cambiamo discorso. No, ma in 20 secondi ti dico che secondo me invece tira anche, cioè, sì, insomma, la bellezza è un valore oggettivo, ma secondo me funziona anche, come dicono quelli televisivi, no? Funziona, il verbo funzionare, anche la famosa contaminazione del calcio con altri aspetti della vita sociale, quindi poi alla fine in realtà la puntata, per esempio la puntata sulla Camorra con il campionato che era fermo fece un ascolto pazzesco, per cui non, secondo me funziona tutto, dai, non le due cose messe insieme, ecco. Senti, ma... la musica etnica, la contaminazione, l'ultimo rifugio degli idioti, la comunicazione, l'aggettivo mitico, Francesco De Gregori, maestro, il principe. Ascoltami, ho perso il filo, il segno e tutto quanto, non so più cosa, cosa ti volevo dire, no, ma pazienza, che stavo a dire? La cosa, allora la ricordamelo tu. No, come, voglio chiederti come va Twittao, per prima cosa. Twittao va bene, ieri è stata una buona giornata, sono credo quinto o sesto, ma in riavvicinamento rispetto alle posizioni di testa, siamo sempre 40 e questa è la situazione, ma sai, Twittao, devo dirti la verità, io sono un po' in polemica perché a un certo punto hanno cambiato le regole e l'hanno reso, per renderlo ancora più divertente, l'hanno reso simile a una lotteria assurda, per cui adesso il risultato esatto vale tantissimo, per cui tu sei lì che un gol, che ne so, il 2-0, il 2-1 in Germania-Algeria ti cambia la vita, capito? Come giusto che sia, insomma, insomma, è diventato un po' un gioco d'azzardo, io sono contrario al gioco d'azzardo, però sei un perfetto portavoce di te stesso, il signor Cruciani? Il signor Cruciani l'ho sentito ieri sera, era a Strasburgo, vi saluta tutti, era, sembrava tonico, insomma. Ma al di là di quello, come sta continuando la risalita? Non lo so, adesso... non lo so, oggi non ho guardato. Non sei una persona corretta. Non sei una persona corretta, comunque sappi, no, Pierluigi. Non sei perché? Una persona. Perché denigri Cruciani? Denigri continuamente Cruciani, che è partito male. Denigro il signor Cruciani. E adesso sta risalendo la classifica. Sta risalendo la classifica. E adesso vediamo con i quarti di finale. Ma noi lo sosteniamo, ti dirò di più, noi lo sosteniamo. Allora, Sandro da Napoli, Giampiero da Bologna, Fabio da Grosseto, mi stavi sentendo, volevi dire sul calcio americano, colombiano? La cosa incredibile di questi ottavi di finale è stata che infatti, da un lato sono state partite equilibratissime, quindi veramente... però poi alla fine sono passate, diciamo, tutte le migliori, il pronostico rispettato totalmente, 8 su 8 le vincitrici del girone, e veramente infatti è il mondiale dei vincitori morali, perché il Cile poteva passare, l'Algeria poteva passare, gli Stati Uniti potevano passare, però poi alla fine sono passate le 8 senza riscontro. La sorpresa delle sorprese, dagli ottavi più equilibrati di sempre, ora non ho memoria di tutti gli ottavi della storia del calcio, però di quelli che mi ricordo i più equilibrati, zero sorprese. Questo è il discorso. È vero, incredibile, ma meglio così, perché a questo punto abbiamo dei quarti di finale belli. Gli ottavi erano un po', cioè dal punto di vista, diciamo, della storia, della tradizione, gli ottavi erano un po' sfigati, almeno sulla carta, ma sono state partite bellissime. Sì. Adesso abbiamo dei quarti di finale coi fiocchi, faccia Germania, manco a dirlo, Brasile-Colombia, partita pazzesca, Argentina-Belgio è bellissimo, diciamo, l'unico quarto un po' così è Olanda-Costa Rica, ma attenzione perché poi l'Olanda non se lo porta da casa. Non se la porta da casa, come sempre, come mi avevi ragione, non se l'è portata da casa affatto il Belgio, che non mi ha fatto una grandissima impressione. Alla fine, guarda che strano, in un mondiale decidono i giocatori di talento. Quella giocata Messi-Di Maria, brutta Argentina peraltro, e Lukaku che ha acceso il Belgio quando è entrato, ma non un Belgio che mi abbia emozionato in maniera particolare, No, però secondo me io delle prime uscite, e poi comunque attenzione perché stiamo parlando, io sono d'accordo con te, questo specie di, diciamo, di freddezza nei confronti del Belgio appunto è diffusa, però insomma questa squadra ha fatto 4 partite e 4 vittorie, era un outsider del mondiale con tutti i riflettori puntati addosso, con ogni opinionista che diceva il Belgio, come ti ho detto più volte, se non parlavi del Belgio e della Colombia eri uno sfigato, perché questo mondiale, cioè, dire, non capivi niente, e devo dire che stanno facendo molto bene tutte e due. La Colombia sicuramente è stata più brillante. Sai che prima aveva chiamato un ascoltatore dal North Carolina? Dal North Carolina, allenatore di, purtroppo tutta la linea, non siamo riusciti a proseguire una discussione molto interessante, ma conto di farlo nei prossimi giorni. Adesso invece ci chiama un ascoltatore che si chiama Paolo, dal paese in cui ti trovi tu, cioè dal Brasile. Paolo, buongiorno. Buongiorno a voi. Dove si trova? Buongiorno a Paolo. San Paolo, io vivo qui da 25 anni e sto seguendo ovviamente il mondiale da italiano. Ero uno degli otto matti su una barca arrivata a Manaus in Amazzonia per seguire Italia e Inghilterra, quindi io il mondiale l'ho vinto, l'ho visto solo quella partita lì e questo è andato bene. E volevo... Sì, dica. Sì, siamo finiti sui giornali, sul canale 5 Corriere, insomma, una roba pazzesca, litigare un po' con gli inglesi, ma è stato bellissimo. Volevo solo dirvi questo da qua, insomma, io il terzo mondiale che vivo da qua, e volevo chiedere anche a Pardo un'opinione, perché io ho parlato con qualche giornalista inglese. Tutti quanti sono arrivati qua in Brasile con la sensazione che fosse il quinto mondo, non il terzo, quindi anche per voi lavorare sarebbe stato difficile. Gli inglesi hanno detto che insomma alla fine siete riusciti a lavorare abbastanza bene, quindi l'immagine del Brasile è un po' migliorata da questo punto di vista. Voi siete d'accordo o è un po' mio di tifo alla brasiliana da qua? Insomma, non è un disastro come tutti si aspettavano. Cosa ne dite di questo? Allora, la situazione degli stadi è buona, ma insomma no, io penso sinceramente che il Brasile sia l'organizzazione non è direttamente proporzionale al fascino. Questa è una terra meravigliosa, un popolo meraviglioso, è un paese bellissimo, e ciò non toglie che ci siano dei problemi, delle disparità enormi, e anche dal punto di vista infrastrutturale, insomma, cioè, faccio un esempio banale: la strada fra Rio de Janeiro e Mangaratiba, che è la sede del Ritiro d'Italia, si va a 60 all'ora, perché insomma va bene così, voglio dire, fa parte anche del fascino e della bellezza del luogo. Ci sono tante cose che non funzionano, ci sono odori indescrivibili nell'aria della sera, ecco, parafrasando il maestro Battiato, cioè ci sono dei luoghi a Rio de Janeiro dove arrivano delle zaffate, come diciamo noi a Roma, abbastanza inquietanti. Insomma, è un posto ruvido, un posto non leccato, non è un posto perfetto, sì, certo, preciso, per cui anche la sua bellezza, il suo fascino, l'esperienza delle favela sono una delle cose che mi porto dietro nella vita, quindi l'organizzazione è un'altra cosa, insomma, ecco, se mi si consente, sì, questo discorso. Cioè, abbiamo visto mondiali meglio organizzati, ma non conta, perché poi alla fine anche lo stesso Sudafrica, dove ti ricordi, Pierluigi, eravate partiti con mille preoccupazioni di ogni genere, quel mondiale, mi confermi, fu perfetto dal punto di vista organizzativo, sì, e tutto quanto. Beh, in Sudafrica devo dire, non è che sono Mannheimer o non ho fatto studi recenti per paragonare i due paesi, ma la mia esperienza è che in Sudafrica sia molto più avanzato, sia molto, sì, più organizzato e rispetto al Brasile, per quella che è l'esperienza che ho avuto tra Confederation e Mondiale, ma ripeto, magari è solo una mia esperienza, però ripeto, questo non toglie nulla. No, però sai, la prospettiva a stretto giro di posta, un paio d'anni ci sono le Olimpiadi, quindi non è che chiuso questo Mondiale, organizzato bene o male, ci sarà un sequel estremamente importante, che sarà quello olimpico, quindi il problema è e resterà di attualità, Pierluigi. Sentiamo Sandro da Napoli, grazie a Paolo dal Brasile naturalmente. Sandro da Napoli, poi ti giro una considerazione in cui ho aperto il programma, voglio sapere cosa ne pensi. Sandro, buongiorno. Ciao. Carlo, ciao Pierluigi. Ciao. In realtà sono per strada, sono sulla 1, quindi sono quasi a Napoli. Bene. No, allora, una considerazione su Mazzarri, che ho amato tanto, perché ovviamente dal tifoso napoletano, ho odiato altrettanto, allo stesso modo, per la sua testardaggine, e io qui lo dico e qui lo nego, come si suol dire, ma secondo me non è un allenatore da Inter, non è un allenatore da grande squadra. Eppure ha rifirmato, oggi prolungato fino al 2016. Napoli è una grande squadra e a Napoli ha fatto bene, quindi non sono completamente d'accordo, nel senso che a Napoli ha fatto cose molto importanti, e il Napoli negli ultimi anni ha una dimensione che è almeno pari, ma in realtà negli ultimi anni sarà superiore a quella dell'Inter, quindi Pierluigi, però la considerazione, tipo la domanda ti posso fare è: avessi tu una squadra da scudetto, chiameresti Mazzarri ad allenare? Cioè, il discorso è che comunque fin qui ha avuto un grande percorso di crescita, ha fatto grandissime cose a Napoli soprattutto, però resta il fatto che insomma deve ancora concludere questo percorso con cucendo qualcosa, toccando qualcosa di importante, questo è forse il discorso dell'ascoltatore. La considerazione che ti volevo girare è questa: sai come ci stiamo rotolando nei nostri problemi, no? In questi giorni, dove qui è tutto da buttare, a cominciare dai dirigenti per finire con l'ultimo degli allenatori. Se dai un'occhiata alle ultime 8 di questo mondiale, sono tutte squadre che, tolta la Germania, non hanno grandi campionati. Non hanno campionati molto ricchi, hanno organizzazioni più o meno avanzate, certamente l'Olanda, un po' meno il Belgio, di nessun tipo la Colombia, il Brasile lo stiamo vedendo adesso, il campionato argentino non è, come sappiamo, il massimo della vita, in Francia ci sono un paio di squadre e soprattutto sono tutto, oltre la Germania, sono tutti paesi da esportazione di giocatori. Quindi noi siamo qui a dire mettete quelli da primavera in prima squadra, dalla prima squadra alla nazionale. Io invece comincio a pensare, pigliamo questi, se non sono abbastanza bravi per giocare qui, che vadano a giocare da un'altra parte, magari in Brasile o in Colombia o in Olanda o in Costa Rica, o no? Sì, sì, senz'altro, no, è molto interessante il discorso appunto che nessuna delle nazioni con le leghe più importanti è riuscita a far bene. L'Inghilterra ha un problema storico, forse di eccesso di stranieri nel proprio campionato, la Spagna ha avuto una generazione incredibile e i successi del Real Madrid e Barcellona comunque... in quei successi lì i giocatori spagnoli hanno avuto un ruolo molto importante. È vero, insomma, ormai è tutto legato, tutto si combina, quindi... Ma poi soprattutto Francia, Brasile, Colombia, Argentina, Belgio, Olanda e Costa Rica sono comunque nazionali costruite all'estero. Sì, appunto, ma perché ormai non c'è più differenza, cioè ormai il mondo del calcio è un tutt'uno, è unico. Non c'è più come una volta troppo il concetto delle scuole, secondo me, o perlomeno è sfumato rispetto a prima. I giocatori si mescolano continuamente nei campionati, nelle culture, nelle preparazioni atletiche, tutto ormai, e questo è il motivo per il quale diventa ancora più importante riuscire a essere competitivi, perché una volta te la cavavi con la forza della scuola, no? Del fatto che comunque hai una cultura calcistica di un certo tipo, che sì, dei giocatori, diciamo, del terzo mondo calcistico non riuscivano ad avere accesso a determinati sistemi di preparazione, e oggi no, oggi è tutto mescolato, e quindi però... una generazione eccezionale in Colombia come questa, che era già successa in qualche modo negli anni 90, però quello che ti voglio dire è che anche i nostri ragazzetti possono anche pigliare la valigia, allontanarsi da mamma e papà e andare da qualche altra parte, non c'è niente di scandaloso. Verratti e Sirigu certamente. Forse le nostre due luci di speranza per il futuro sono poi all'estero, quindi assolutamente sì. Giampiero, Bologna, buongiorno. Salve. Dica. Complimenti per la trasmissione e un saluto a Pardo, che è il mio idolo. Idolo addirittura, esagerato. Idolo. Esagerato. No, un mio amico, gli voglio molto bene, ma idolo no. Giuro. Ma sei un grande. Ascolto una domanda. Io, anche se sono di Bologna, sono juventino. Come si fa a vincere la Champions League con tre acquisti? Con? Tre acquisti. Con tre acquisti. Prendi Maradona, Müller e... no, Maradona no, Müller, Messi. Io non ho capito, Juventino? Sì, è Juventino. Per la Juve? Dice come fa? Come si fa? Si fa, cioè è chiaro che la strada è stretta, la Juve parte di rincorsa rispetto alle grandi tradizionali che ci sono in giro per l'Europa, però la strada è possibile, insomma, non è una distanza incolmabile, bisogna forse cambiare mentalità in Europa. Bisogna prepararsi. Io credo l'anno scorso la Juve abbia pagato poi alla fine, oltre a una serie di casualità, anche di sfortune, la brutta partenza in campionato, che può sembrare ridicolo perché poi alla fine ha perso una sola partita contro la Fiorentina, però in quel primo mese un po' di affanno in campionato rispetto alla Roma, che era partita così forte, ci sono state quelle partite di Champions League col Copenaghen e col Galatasaray in casa che poi alla fine sono state decisive per l'eliminazione. La Juve si è svegliata dopo Fiorentina-Juve in concomitanza con la trasferta a Madrid, e poi è stato completamente un altro passo, però insomma è ovvio che pareggio in casa con Real è stato di prestigio, la vittoria col Copenaghen è stata quello che bisognava fare, poi c'è stata lì la neve di Istanbul e quindi ci si è messo anche un po' l'imponderabile, però la Juve sicuramente è stata eliminata con i due pareggi nelle prime due partite, quindi ci vuole magari una preparazione un po' diversa per entrare in condizione un filo prima, questo non ci sono dubbi. Dal punto di vista tecnico dipende come vuoi giocare, ovviamente, nel senso che se vuoi passare la difesa a 4 e magari a un 4-3-3 ti serve un grande attaccante esterno che in questo momento la Juve non ha. E poi vediamo anche alla voce cessioni quello che succede, perché non credo che, anzi certamente il mercato non è finito qui, e poi vediamo cosa succede con i giocatori che sono i più richiesti per la Juventus. Fabio? Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Dica. Senta, no, io volevo riferimento al discorso dei calciatori che dovrebbero andare a partire con la valigia e tutto, però mi sembra che quelli che sono partiti, tolto Sirigu, ok, perché i portieri chiaramente non è che ce ne sono tantissimi, e Verratti, che è un fuoriclasse, Criscito, Giaccherini, questi qui che erano sul giro della nazionale, sono stati completamente dimenticati. A torto o a ragione? Cioè, perché quelli che vanno all'estero non li guardiamo più? A torto, perché è il motivo che secondo me lo staff che prenda quello che prende per dovrebbe controllare secondo me meglio anche all'estero quelli che vanno fuori. Ma vede, quello che sto dicendo io, che c'è questo trend, questa avversione nei confronti di quelli che vanno a giocare all'estero, per farla in maniera semplice. Io mi ricordo ancora Pardo che, quando c'è stata la notizia di Diamanti in Cina, ha detto: questo in nazionale non va. Te lo ricordi, Pier? Sì, è vero. Questa è la realtà. Ma se vuoi, la Cina può essere pure l'eccezione che conferma la regola, no? Ci può essere pure una scelta talmente distante dagli standard qualitativi del nostro calcio, del calcio europeo, per cui secondo me Diamanti, nel momento nel quale ha accettato quel contratto, in cuor suo sapeva che gli avrebbe tolto al 99% la possibilità di giocare il mondiale. Ma le altre storie di giocatori che giocano nei calcetti europei, io sono d'accordissimo con l'ascoltatore, noi abbiamo ancora evidentemente un po' di presunzione, purtroppo, all'Italia e poco all'estero, insomma, ormai bisogna bisogna guardare anche all'esportazione, perché si gioca a pallone purtroppo meglio che da noi anche da altre parti, e quindi insomma poi è ovvio che non c'è nessun nome, sinceramente. Il nome clamoroso sarebbe stato Verratti, se Verratti fosse stato escluso dal mondiale, come sembrava a un certo punto, quello sarebbe stato clamoroso. Devo dire che, con tutto rispetto sia per Criscito che per Giaccherini, sono giocatori che, forse Criscito l'avrei portato, ma sono giocatori che potevano essere convocati e potevano non essere convocati. Fenomeni, però non ne sono stati lasciati a casa, sì. La sensazione, la famosa battuta, no? Non ho lasciato a casa Maldini. Detto questo, che ci sia un po' di provincialismo, secondo me è vero, ed è un provincialismo frutto di una mentalità che qualche anno fa poteva funzionare, perché qualche anno fa noi potevamo anche fregarcene e non avevamo neanche il concetto che i nostri giocatori andassero all'estero. Oggi non possiamo più fregarcene, perché ci sono altri campionati che sono migliori del nostro e dobbiamo guardare. Tutti convocati. Ma sentiamo subito Mario in collegamento, accusato da tutti. Come ti difendi? Via! Ma andate a cagare tutti, va, bastardo. Io a cagare non ci vado! A cagare ci vai tu! Capra che non sei altro! Benissimo! Porti cacciare, insulti, come piace a noi! Abbiamo anche il procuratore di Mario Balotelli qua con noi! Mino Raiola! Mino! Voi tutti gli italiani dovete sciacquarvi il sapone con la bocca prima di parlare di Mario. Come? Al contrario. Oltrante Mario è più forte giocatore del suo ruolo. Sì. E voi italiani non meritate a nazionale. Ma come parla? Così ho già venduto a Mario all'altra nazionale, a Germania. Non si può! Se voi non vi rompete più il cazzo di Mario. Ma che cazzo dici? Prima cosa imparo italiano! E studia sui libri, capra! Seconda cosa, ma si può vendere un giocatore o un altro nazionale? Giusto. Capra ignorante! Io posso tutto? Io sono un Mino Raiola. Io non sono un pagliaccio. Io sono un re del mercato. Sì, del mercato del pesce. Pesce, pesce, pesce, pesce, pesce, pesce. Questo è un preview del Tiki Taka che verrà. Pardon. Sì, più o meno. Togliamo il 20% di grasso e aggiungiamo invece un po' di inchieste, un po' di intelligenza dei salotti, l'intelligenza. Senti. Il signor Cruciani con i suoi modi garbati, sempre da moderato, sì, da timorato di Dio. Intanto, l'ho detto prima a Filippo, Maria Ricci, mi fa impazzire questa storia. Capello convocato domani al Parlamento russo insieme ai dirigenti del Ministero dello Sport e dell'Unione Calcistica per spiegare il flop della nazionale russa ai mondiali e i suoi progetti per il futuro. paura, lo ha annunciato il deputato Anashkin, capo della commissione sport della Duma. Ma mi sembra tutto sotto controllo, tutto sotto controllo. Tutto bene, Molto bene, da lì tranquilli, si argomenta, Vignatievic. Colpa degli arbitri. Colpa degli arbitri, ed è stata una chiara congiura del mondo occidentale contro la Russia, è tutto bene, è così che va, no? Comunque il portiere Akinfeev ha fatto due robe assurde, cioè tre gol subiti in tutto il mondiale, se non sbaglio, due colpa del portiere, poi di che parliamo, dai. Ha chiamato lui, no, però, poi sicuramente, ho capito, sì. Però insomma, nel mondiale dei grandi portieri mi sembra che abbia fatto eccezione. Voglio farti sentire un'altra cosa che è Zeman. Sai, oggi presentato, so che ti manca molto il calcio italiano, quindi oggi ti voglio fare un paio di, ti do un paio di dosi di calcio italiano. Una è stata quella con Mazzarri, che ha prolungato con l'Inter fino al 2016, e l'altra, vabbè, ti risparmio Buffon, che si è fatto vedere in giro con una nostra nota collega e pare abbiano mangiato tortelli di zucca, ma questa te la risparmio. Invece voglio farti sentire Zeman presentato a Cagliari. Penso che siamo rimasti un po' dietro. Noi eravamo sempre quelli che pensavano che non ci può succedere niente, che siamo molto bravi senza fare niente. Penso che mentre gli altri paesi fanno qualche cosa per calcio, qua si fa poco. Non ci sono persone. Non ce l'ho persone io. Però allora che idea dovrebbe guidare queste persone? Uno prima di tutto che ama calcio e non i soldi, e secondo uno che veramente vuole cambiare qualche cosa, visto che i risultati non sono soddisfacenti. Vabbè, questo Zeman sullo stato dell'arte del calcio italiano parla sempre molto da Santone Zeman. Dopo il fallimento di Roma, vediamo quest'anno cosa combina al Cagliari, caro Pierluigi. Intanto Cellino, sai come vanno le cose a Leeds, sai che ha chiesto ai suoi giocatori: oh ragazzi, merenda al sacco, perché io pranzo non lo pago, e per favore lavarsi la roba a casa da soli. Mi sembra, no? Dalle piccole cose si giudica un presidente. E si giudica un grande progetto, giusto? Giustamente. Calcio americano, ne parlavamo prima. Anche tu hai fatto tifo a stelle strisce ieri sera o tifavi Belgio? Ma io tifavo per il 2-1 del Belgio per twittare. Ormai, sei malato di quelle cose lì. Mi ha tolto ogni passione. Quindi. È stata bellissima. No, io devo dire che sulla partita ho tifacchiato bene, perché stavo giocando meglio nel secondo tempo, ho avuto tantissime palle gol, poi c'è stata quella clamorosa degli Stati Uniti all'ultimo minuto, poi l'azione degli Stati Uniti nel supplementare dopo il 2-0 è commovente. E quindi sono due bellissime squadre. Il Belgio ha più qualità complessiva, più qualità diffusa, ma gli Stati Uniti hanno spirito. Guarda, più vedo partite con tutte queste vincitrici morali che escono veramente a testa altissima, e più mi arrabbio sulla nazionale. No, ma anche io, quello che ti dicevo ieri, forse ci ha visto giusto Prandelli quando ha detto quelle cose, molto spernacchiato da tutti, no? Ha usato la parola patria, patriottismo, che sono sempre cose un po' eccessive, però quantomeno spirito di corpo possiamo dirlo, o motivazione, o una missione in cui credere, quello possiamo dirlo. Mi sembra che tutte queste siano state fortemente motivate dalla missione che hanno portato avanti, quegli altri meno. Quelli che sono andati a casa con un piccolo corollario che riguarda il lavoro degli allenatori, che è in buona parte a questi livelli qui, e soprattutto quello, cioè è tirar fuori questa motivazione, questa magia, questo spirito di squadra dai gruppi. Certo. Non è mai il lavoro che un allenatore a quei livelli lì deve fare su Balotelli, Cassano, Marchizio o Pirlo, non è soltanto controllare che il destro funzioni bene, è un lavoro soprattutto di motivazione, di amalgama, la famosa amalgama, no? Sì. E mi pare che non abbia funzionato. Poi ovviamente non è solo colpa di Prandelli, solo colpa di Prandelli, però magari a Prandelli mancava il reagente chimico del carisma, che Lippi invece aveva, tanto per dirne uno. Senti, sì. Pier, parliamo ancora con questi due ascoltatori, poi ti lascio andare a spasso per Obrazio. Stefano, sì, buongiorno. Sì, buonasera. Dica. Niente, io volevo tornare a farvi una domanda, tornare un attimo sul flop dell'ultima partita. Io volevo sapere se è normale, anche perché il nostro calcio, che un portiere come Buffon, che è il capitano della nazionale, è una roba come 25 anni che gioca a pallone, e finito la partita, la prima cosa che va a dire ai microfoni è dare addosso ai suoi compagni, che siano giovani o meno giovani. Sì, guardi, Stefano, me... questo è stato argomento del contendere per molti e molti giorni. Se l'ho ascoltato, sa come la penso, mi sembra un argomento un po' decaduto in ordine di tempo. Resta sempre attuale, resta sempre un comportamento che, boh, secondo me, è stigmatizzabile, secondo lei pure, secondo altri meno. Rino Modena, buongiorno. Salve, buongiorno a lei, dottore. Dica. Senta, rapidamente, io ho fatto un'esperienza di professionale in America e volevo portare un contributo, più che altro una riflessione, sul fatto che mi sono sempre chiesto perché il calcio in America stentasse a diventare così famoso come gli altri sport di squadra, rugby, football americano, eccetera. Beh, io ho scoperto, detto da molti americani, che loro non amano il pareggio. Uno sport che alla fine della partita finisce in parità, sì, non, certo, è uno sport. Non so, certo, se questa riflessione era mai stata presa in considerazione. Sì, sì, sì, sì, questo è uno dei grandi temi, no, Pierluigi? È uno dei grandi temi, non amano anche il pareggio. Anche uno sport senza playoff, per esempio. E anche piace uno sport dove si segna poco, cioè dove sono poche marcature, no? Questi sono... Sì, no, ma certo, sono tutti tratti tipici, però insomma poi alla fine non è che c'è molto da non lo so, nel senso, magari con un'altra storia gli Stati Uniti sarebbero stato un grande popolo che ama il calcio, nel senso che poi le cose succedono anche così perché succedono, perché l'Europa è lontana e perché loro hanno una forza di un'egemonia sui quattro sport loro clamorosa, che fa sì che il calcio possa diventare al massimo il quinto sport, e già troppo è cresciuto. Per esempio in America mi risulta che sia uno sport molto femminile, certo, sia, certo, sia molto apprezzato e molto amato dalle donne, però sa, mi sembra che ci siamo cresciuti, no? Noi nel movimento calcistico americano, e mi sembra che ci siano dei segnali molto incoraggianti da questo punto di vista. Però è chiaro che quando hai quattro sport, oltretutto dislocati anche dal punto di vista del calendario tutto l'anno, in modo che non ci sia mai un momento di pausa, perché l'estate c'è il baseball, il basket comincia, lo sappiamo, a novembre. Finisce a giugno. Il football americano è in inverno, quindi in ogni momento dell'anno gli americani hanno il loro gioco, il loro sport, ed è difficile per un altro sport farci strada, certo. E forse è diventato lo sport della nazionale veramente, perché poi, come dicevamo ieri, mentre nei loro sport sono abituati a primeggiare o addirittura a non confrontarsi con le altre nazionali perché sono troppo forti, nel calcio invece devono confrontarsi col mondo e si stanno cominciando a divertire, magari. Piano. Appunto. Grazie Pierluigi, a domani. Ciao ragazzi, a domani, ciao. Basta. Traffico. In 2012, when we had the first meeting, when Flavio and Alessandri, they said to me that they had this dream to buy a team and to build a amazing thing in America. So 2012 until now, we have been speaking a lot, we're flirting a lot, and until today that we already signed this final contract, and I'm so happy for this dream come true. So thank you everybody. Convocati. A stunning upset here on center court. The world number lot one has been eliminated from Wimbledon 2014 at the hands of an Australian teenage wildcard. Nick Kyrgios continues to burst from his chrysalis and gatecrash the elite of the tennis world with a fantastic, nerveless display of scintillating tennis that he sustained for close to 3 hours and 4 sets. Dunque io adesso vorrei cambiare erba. No, aspetta, non chiamate la buon costume la narcotica. Vorrei cambiare erba passando da quella dei mondiali, naturalmente, del Brasile, a quella di Wimbledon. Lo faccio con Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo. Buongiorno a voi, come va? Benissimo, e tu? Tutto bene. Lì sorprese ce ne sono. Ci stiamo sorprendendo un pochino per questo Wimbledon, perché stanno succedendo tante cose interessanti e quindi per fortuna il tennis è vivo, è uno degli sport più vivi del panorama mondiale. Sì, questo è vero. Mentre ai mondiali di calcio partite molto combattute, ma alla fine passano quelle pronosticate, Wimbledon d'altra parte è stato sempre terreno di elezione per la nascita di nuove stelle, e Becker 16enne e Chang, e qualcuno che è venuto fuori dal nulla. Lì è la magia di quei giardini o di quella superficie. Sì, ci sono due componenti, secondo me, anzi tre, importantissime. Uno è che la superficie spinge, insomma, gli attaccanti, no? Spinge ad essere coraggiosi, paga i coraggiosi. Due, bisogna saper giocare bene a tennis, cioè qui è difficile che venga fuori. Se guardiamo l'Albo d'Oro, non trovi, almeno nel maschile, ma anche nel femminile, non trovi un buco, trovi dei finalisti che, come Chris Lewis, famoso, che rimane sempre negli annali, però non trovi mai un vincitore a sorpresa veramente, che poi non si sia ripetuto da qualche parte o che non avesse le stimmate del campione. E questo perché bisogna saper giocare bene a tennis, perché ti dà delle, comunque sia, anche se nella seconda settimana è terra battuta, perché ormai veramente gioca in un modo diverso, viene tagliata diversa l'erba, e gioca in un modo diverso soprattutto, comunque sì, ecco, è difficile trovare uno che non sappia giocare bene a tennis, perché le situazioni sono particolari e quindi vengono stimolati i coraggiosi. Senti, ma questo Kyrgios quanto vale? Guarda, è davvero una stella? Creduto, sì, io credo di sì, perché è uno che ha sempre avuto grandi potenzialità sin da subito, da quando si è visto a livello giovanile, under 18, io l'ho visto giocare all'Open d'Australia, sono rimasto veramente impressionato, ha grande potenzialità fisiche e grandi qualità, facilità di gioco, cioè lui gioca facile. Ho visto la partita con Nadal, ha visto che lui riesce a fare delle cose abbastanza difficili, poi per uno di 1,93 m molto equilibrato, può solo crescere negli spostamenti a rete, ancora non sai cosa sia la rete praticamente, però se imparerà quelle due o tre cose, secondo me stiamo parlando veramente di un fenomeno. Poi non dimentichiamo la forza mentale, perché tenere contro Nadal in quelle situazioni, Nadal a un certo punto si è messo a fare il difensore puro, come solo lui sa fare al mondo, difensore totale, aspettava solo che l'altro sbagliasse, giocasse un colpo in più, tenere a quel livello continuando a giocare il proprio gioco, perché ha continuato a tirare, a cercare il punto, a 19 anni, insomma, ecco, altro che 144 del mondo questo ragazzo qui, a parte la classifica che lo premierà fra i primi 70 del mondo, già vale tranquillamente i 30, ecco, potenzialmente. È tramontata invece definitivamente tra le lacrime la stella serena? Non credo. No, lì come al solito è successo qualcosa di strano. Io, insomma, cercherò di spiegarlo sul giornale di domani. Insomma, qualcosa sempre succede quando perde Serena, perché in teoria dovrebbe vincere tutte le partite, è la più forte di tutte, ma non di poco, di tantissimo. Se perde, o ha dei problemi suoi di cattiva gestione pre-torneo, per cui arriva completamente fuori condizione, o magari come ieri, io credo che abbia contribuito qualche piccolo fattore emotivo legato al fidanzato, storie di vita. Vincenzo, grazie Vincenzo, a presto, arrivederci. Ciao Vincenzo Martucci. Siamo al migliore in campo di oggi, Gianmarco, North Carolina. Sono un insegnante di scuola media in North Carolina, un emigrato italiano. Ma davvero? E una considerazione sul calcio americano, in particolare sulla partita di ieri, perché è veramente divertente guardare una partita di calcio negli americani, con gli americani, quando c'è di mezzo la nazionale americana. Perché secondo me gli americani hanno una passione per il team, per il calcio, che noi abbiamo perso tempo fa, perché... Sì. Quando noi ci preoccupiamo delle squadre di club, ci preoccupiamo delle polemiche, Balotelli, non Balotelli, Prandelli, loro semplicemente fanno il tifo per la propria squadra, cantano, si divertono, e c'è un'atmosfera completamente diversa, molto anche, se vogliamo, più godibile. E beh, una maglietta in America, maglietta di tutti i convocati in North Carolina, la mandiamo proprio senza fare una piega. Tra l'altro, giustamente Franco Piantanini, autore di questo programma che già saluto, mi suggeriva che il campionato americano, che è insomma all'interno di tutto questo movimento, può essere ancora in settimana nazionale il fattore trainante, ripartirà da una grande superstar come Kakà, che è stato accolto davvero da superstar a Orlando, da David Villa, che insomma verso fine carriera, ma non un giocatore totalmente finito, non sembra neanche più così tanto il cimitero degli elefanti che era in passato. Naturalmente torneremo a parlarne qui tutti i giorni dalle 2 alle 4. Grazie anche a Roberto Scaltritti in regia, Claudio Schiattoni in redazione. Ci sentiamo domani, ciao. Convocati.